Bellezza, sì. Per gli antichi la bellezza era una cosa importante. Nelle polis della Grecia classica i brutti non erano popolari. Perché un cittadino godesse dell'approvazione di tutti non gli bastava essere affidabile sul piano etico, fortunato su quello sociale, generoso verso gli amici e immune da ogni invidia da parte degli dèi. Doveva anche essere bello. L'aggettivo che indicava questa difficile condizione, kalokagathos, esprimeva in un'inscindibile crasi i valori congiunti della bellezza e della bontà. E se qualcuno a bontà lasciava un poco a desiderare, ma aveva in regola tutte le carte della bellezza, l'opinione pubblica era sempre disposta a venirgli incontro. Si racconta che quando ad Atene fu ristabilita la democrazia nel 401 avanti Cristo, il nuovo governo non mancò di fare abbattere le statue dei 30 tiranni, ma ne salvò una perché il dedicatario, come racconta credo Plutarco, era un bellissimo uomo. E Omero ricordava che tra i partecipanti alla guerra di Troia c'era un tale Neleo, che nei 10 anni di quella spedizione non si segnalò mai per abilità strategiche o per gesti di particolare valore guerresco, ma era semplicemente il più bello di tutti gli Achei. E tanto gli sarebbe bastato per distinguersi dalla massa e tramandare il suo nome ai posteri. Omero naturalmente era cieco, ma non ignorava come la controparte negativa di costui, Tersite, il più brutto e sgraziato tra quanti s'accalcavano sotto le mura fatali, e fosse un fior di mascalzone che si permetteva di intervenire in assemblea per parlamare dei capi, e per questo gli capitò di essere preso a vignate da Ulisse con soddisfazione di tutti, tranne sua. E solo molti secoli dopo, un cinico come Menippo avrebbe osservato che in fondo bastava aspettare pochi decenni perché tra lo scheletro di Tersite e quello di Neleo fosse difficile stabilire priorità di ordine estetico. Oggi, naturalmente, i criteri con cui noi definiamo la bellezza sono diversi da quelli di Omero e Plutarco, ma quel valore, diciamolo, non ci è indifferente. Chiunque uomo o donna sia stato dotato dagli dèi e di un volto o di un corpo che a quei criteri soddisfino, sa di poter godere nella grande gara della vita di un certo numero di vantaggi. E non sarà giusto, ma nel nostro mondo per aver successo la bellezza, se non basta, certamente aiuta. Quello che al nostro mondo manca, purtroppo, è la capacità di accettare se stessi tipica degli antichi. Per un motivo o per l'altro, la nostra ammirazione della bellezza non è mai completamente esplicita, è come se in un certo senso ce ne vergognassimo, con la stessa logica per cui nelle opere d'arte cerchiamo dei significati che vadano al di là dell'essere appunto opere d'arte, ai belli chiediamo per poterli appieno ammirare ed essere anche qualcosa d'altro. E persino le candidate al titolo di Miss Italia pretendiamo che siano oltre che belle colte, e salvo che poi gli puoi stabilirlo dei quesiti talmente idioti che loro stesse finiscono per adontarsene. Così del bel sindaco che i leader della sinistra hanno scelto perché contrapponga il fascino della sua persona a quello delle ricchezze del nemico, oggi qualcuno si sforza ad assicurarci che non è solo bello, che molti e più significativi sono i motivi per cui dovremmo schierarci al suo fianco, e che si tratta di un politico che nel ruolo attuale ha ben operato e quindi offre garanzia di fare altrettanto in quello futuro, di un personaggio che pur avendo maturato esperienza e al tempo stesso per storia ideologica e personale libero degli errori del passato e dei suoi fantasmi, di un uomo che non avrà forse le competenze tecniche del suo ex concorrente, ma tanto si sa che in Italia le competenze tecniche ai politici fanno più male che bene, di un laico ben accetto al Vaticano, che cosa che a un sindaco di Roma non nuoce mai e a un capo del governo italiano meno ancora. Ora, non saremo certo noi a mettere in discussione tutte queste doti, anche se sarebbe facile rilevare che dalla benevolenza curiale è bene fidarsi il meno possibile, che aver fatto bene una cosa non abilita a farne un'altra diversa e che difficilmente si può considerare una new entry della politica chi in 20 anni abbondanti è stato, oltre che sindaco, dirigente di almeno 3 partiti, deputato e persino ministro. Di tutto questo si può discutere e suppongo si discuterà, ma adesso no, non è il caso. Dobbiamo fare tutti uno sforzo di sincerità e ammettere senza inutili infingimenti che il sindaco di Roma è stato scelto come ultimo baluardo del centro-sinistra perché è bello e come tale in questa società dell'immagine ha molte più probabilità di farcela dei tanti sgorbi pur competenti e sagaci che vi si sarebbero potuti opporre. Tanto sappiamo tutti che come al cristiano del Cyrano di Bergerac non gli mancherà certo qualcuno in grado di suggerire al bisogno le frasi ben tornite e le affascinanti promesse che ai pretendenti si addicono. E non fate soprattutto i moralisti. Come mossa politica l'operazione Sindaco Bello non sarà forse saltante, ma è perfettamente lecita. Lo sa anche Berlusconi, che pur provvisto com'è di altre frecce al suo arco, non ignora l'importanza di quel valore, e infatti poveraccio cerca anche lui di sembrare più bello che può. Che tutto questo in ultima analisi significhi considerare l'elettorato come composto da una massa di imbecilli del tutto indifferenti ai programmi, agli interessi concreti dei gruppi sociali e pronti a votare il primo bel bambolotto che gli si offra, non è cosa che possa impressionarci. Che i programmi in Italia non valgano la carta su cui sono scritti, lo sappiamo tutti. Che gli interessi che i governi tutelano siano sempre gli stessi è altrettanto noto. E comunque... di un elettorato che conferma regolarmente il potere a una classe dirigente come la nostra, si può pensare davvero di tutto. E a proposito, avete notato, spero, che la conferma definitiva della scelta di Rutelli non la sia avuta in qualche sede politica o istituzionale come la tanta attesa convention degli eletti dell'Ulivo, che a questo punto si limiterà ad acclamare a uso bulgaro un candidato unico. L'annuncio è stato dato nel corso di una trasmissione televisiva, come per farci capire che in quella sede e non in altre, e in base a quei valori e non ad altri, si svolgerà la contesa. E se l'interessato purtroppo non c'era, era Sidney, a commentare l'evento è stata chiamata la Miss Italia in carica, come se la presenza della bellissima per definizione potesse fungere da accettabile supplenza per il bellissimo agli antipodi. E siccome la brava giovane, pur trattata da tutti con una certa fastidiosa condiscendenza, non ha detto quando l'hanno lasciata parlare delle cose insensate, forse varrebbe la pena che i cervelloni dell'Ulivo cominciassero a chiedersi se non valga la pena di saltare il fosso una volta per tutte e di candidare direttamente lei.